Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Fantastica, ragazza. Capite di cosa avete parlato? Capitoglio come pescatoletto di tonno, grillo. Bellissimo, bellissimo. Un consiglio. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, era Beppe Grillo, molto soddisfatto oggi dopo l'incontro con Virginia Raggi, neosindaca di Roma. Ha detto è fantastica, l'unica cosa che ha risposto praticamente ai giornalisti. Almeno uno soddisfatto, diciamo, apriamo così con un po' di ottimismo, con un po' di contentezza, perché sicuramente questa giornata non ne ha portato per niente, almeno per quanto riguarda le notizie italiane, con questa tragedia di cui naturalmente sarete almeno un po' informati, ferroviaria in Puglia. Ne parleremo molto, naturalmente, qui a Effetto Notte. In questa puntata ci saranno, cioè, chi ha seguito tutto il giorno questa tragedia e anche degli esperti per cercare di capire se si può così fare qualche ipotesi, perché come al solito c'è incertezza tra errore umano o guasto. Forse non sono magari anche le condizioni in cui versano le infrastrutture dei trasporti, soprattutto nel meridione, è possibile, come dice Codacons, che sia abbandonato a se stesso? È possibile che nel 2016 accadano ancora cose di questo tipo, due treni che si scontrano frontalmente andando su uno stesso binario? Potete naturalmente, come sempre, fare i vostri commenti su questo tema, i temi di questa puntata di Effetto Notte, o attraverso la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso il numero per i messaggi, per i WhatsApp, che è il 349-238-6666, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Nel frattempo c'è Obama a Dallas, è arrivato il presidente americano per la cerimonia dei funerali dei 5 agenti uccisi. Vediamo se riusciamo a sentire un pezzettino del suo discorso in diretta. Tutti meritiamo un trattamento uguale. Tutti meritiamo lo stesso rispetto. Siamo tutti figli di Dio. Questa è l'America che conosco. Su Sky TG24 sta andando la diretta, una cerimonia interreligiosa che cerca di riunire un po' tutte le parti di questa America piena di contraddizioni e dove è scoppiata di nuovo la tensione razziale. Poi parleremo anche di questo, di molti altri argomenti, ma intanto, mentre voi fate le vostre riflessioni, vi riassumo come sempre la giornata. Lo scontro tra due treni in Puglia, il bilancio provvisorio di 23 morti e una cinquantina di feriti, probabile errore umano, la procura di Trani indaga per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, il ministro Delrio domani riferisce in Parlamento. Stati Uniti, il presidente Obama, lo avete sentito, a Dallas per la cerimonia commemorativa per i 5 agenti uccisi. Fisco, Renzi conferma, addio a Equitalia, entro l'anno i decreti fiscali. Friuli, trovato in un fiume il cadavere dell'aviatore americano riconosciuto dal padre, era scomparso da Viano 10 giorni fa. La donna morta a Sansepolcro è stata uccisa con almeno 2 colpi alla testa. Katia Dellomarino, 41 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato questa mattina sul greto del torrente Afra, non lontano dalla sua abitazione, vicino Arezzo. Furbetti del cartellino nel napoletano, 23 gli arrestati, uno ricorreva a una scatola in testa per non farsi riconoscere mentre passava il badge. Razzismo, sono le donne la categoria più colpita dalla hate speech, cioè dall'incitamento all'odio su Twitter, seguono migranti e omosessuali. E poi è morto a 45 anni Lorenzo Amurri, produttore musicale e scrittore, da anni in sedia a rotelle per un incidente con apnea, è stato candidato al premio Strega nel 2013. Tour de France, l'australiano Matthews vince la 10ª tappa, Froome resta leader, Nibali ancora in fuga. Partiamo quindi da questo terribile incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Puglia, uno scontro frontale tra due treni della Ferrovia del Nord Barese, che fanno capo alla società privata Ferrotranviaria, avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina sul tratto a binario unico tra Corato e Andria. A bordo viaggiavano centinaia di pendolari diretti a Bari, il bilancio provvisorio è di 23 morti, tra cui uno dei macchinisti, e una cinquantina di feriti, di cui 18 gravi. Si parla di probabile errore umano, non si esclude il guasto. La procura di Trani comunque indaga a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. Il ministro dei trasporti Delrio, che oggi era presente sul luogo della tragedia, domani riferirà alla Camera e al Senato. Intanto il presidente del Consiglio Renzi è arrivato in Puglia. Ma cosa è successo esattamente? Sentiamo in questa ricostruzione. È la tarda mattinata di una giornata estiva torrida quando due treni corrono senza saperlo sullo stesso binario unico e in direzione convergente. I convogli appartengono alla società privata Ferrotranviaria SPA, azienda che opera nel territorio a nord di Bari da quasi 80 anni. Quattro le linee che opera la società. La tratta principale viaggia tra Barletta e Bari e nella parte più a nord ferma ad Andria, Corato e Ruvo nell'entroterra pugliese prima di tornare sulla costa. Intorno i filari di ulivi disegnano e punteggiano il paesaggio ai due lati dei binari. Proprio tra Andria e Corato, in piena campagna, i due convogli entrano in rotta di collisione in tarda mattinata, provenendo da due direzioni opposte. Probabile, viste le devastanti conseguenze, l'alta velocità di almeno uno dei due convogli. Come un disastro aereo lo definirà il sindaco di Corato. Sul tratto, a binario unico, non sono previsti scambi. Il sistema è computerizzato. Probabile quindi che da una delle due stazioni non sia arrivato il segnale di stop per uno dei due treni, treni colmi soprattutto di pendolari e studenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è arrivato proprio adesso un dispaccio di agenzia che dice che aggiorna purtroppo il bilancio delle vittime. Erano 23 fino a qualche istante fa, invece sono state estratte altre due vittime, quindi il bilancio per il momento sale a 25. Poi ci torneremo a parlare con chi ha seguito da questa mattina questa tragedia e con alcuni esperti, appunto cercheremo di capire, come vi dicevo, se si possono già fare delle ipotesi e anche in che condizioni appunto versano le infrastrutture dei trasporti in Puglia ma anche nel resto del sud. Stati Uniti, il presidente Obama, lo avete sentito prima, lo risentiamo ancora qualche istante alla cerimonia per i 5 agenti uccisi a Dallas. Noi sappiamo che esistono ancora delle differenze, lo sappiamo. Whether you are black or white or Hispanic, siete bianchi, asiatici, nativi americani o ispanici, noi su Sky TG24 in diretta abbiamo questa cerimonia che vorrebbe ricomporre un'America che, dice Obama, non è divisa. E poi dopo ci collegheremo più tardi con gli Stati Uniti. Per le presidenziali americane, visto che stiamo parlando degli Stati Uniti, Bernie Sanders riconosce la sconfitta delle primarie democratiche nelle primarie democratiche per la Casa Bianca e incorona la rivale Hillary Clinton dandole il suo endorsement, il suo ingaggiamento formale, il suo sostegno formale. Dice: sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, lo ha scandito parlando per la prima volta accanto a lei in un comizio nel New Hampshire. La Corte permanente per l'arbitrato sulla Convenzione ONU della legge del mare dell'Aia dà torto alla Cina nella sua disputa con le Filippine relativa all'area strategica del Mar Cinese meridionale. In primo luogo respingere in toto la pronuncia della Corte permanente ONU di arbitrato sulla legge del mare, poi definire con chiarezza fino a che punto Pechino è disposta a spingersi e a rischiare per affermare il suo status di potenza regionale nel mare che porta il suo nome. Gli Stati Uniti affermano che la sentenza olandese è un importante contributo all'obiettivo comune di una soluzione pacifica, ma Pechino vede le cose diversamente e da 3 anni assiste con grande preoccupazione al rafforzamento americano proprio nelle Filippine. Nella sentenza la Corte ha stabilito che la Cina ha violato i diritti sovrani di Manila interferendo con le attività di pesca, di prospezione petrolifera, erigendo isole artificiali e non impedendo ai pescatori cinesi di operare nella zona. Se fosse solo una questione commerciale, Pechino sarebbe probabilmente più disposta, ma se in gioco c'è, come dicono i cinesi, una questione di faccia, il rischio di un'azione spettacolare non può che aumentare pericolosamente. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Torniamo sulle notizie italiane parlando di fisco. Entro l'anno Equitalia non ci sarà più, arriverà il decreto che cambierà il modo di concepire il rapporto tra fisco e cittadini. Questo l'ha confermato il presidente del Consiglio Renzi oggi a Milano, dove ha incontrato il neosindaco Beppe Sala. Ha scelto Milano Matteo Renzi per il primo incontro con un nuovo sindaco dopo i ballottaggi. Accanto a Beppe Sala ha parlato di una Milano capitale delle opportunità, dei valori e del volontariato, pronta ad accogliere le istituzioni che lasceranno Londra dopo la Brexit. È una capitale di opportunità, non soltanto per ciò che avviene dopo Brexit, ma per i valori che questa città esprime. Questa città ha il diritto e il dovere di vedere il governo al proprio fianco. Al post-Brexit come chance per Milano, Renzi si era riferito anche la mattina presto a RTL, dove aveva parlato anche di banche. Servono buonsenso, ha detto, e regole più umane per le persone, e di Equitalia, che sparirà per decreto entro l'anno. Ultimo appuntamento milanese per il Premier, la visita al Museo della Scienza e della Tecnologia, una visita preceduta da disordini. I tafferugli tra forze dell'ordine e una quarantina di manifestanti dei centri sociali. La visita al museo è stata brevissima. Arrivata la notizia dell'incidente ferroviario in Puglia, Renzi ha lasciato Milano. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Aumentano ancora le sofferenze delle banche italiane a un soffio da 200 miliardi di euro, tornando ai massimi da gennaio, lo ha reso noto Banca Italia. Intanto a Bruxelles si lavora a un accordo, sono fiducioso, ha detto il ministro Padoan. C'è una percezione del sistema bancario italiano che è totalmente distorta in termini di numeri di sofferenze, in termini di numeri di quello che sarebbe necessario per ricapitalizzare. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan è fermo sullo stato di salute delle banche italiane al termine dell'Ecofin. Un tweet del ministro ceco Andrei Babis, scritto nel corso della riunione, affermava che il rischio banche italiane è peggiore della Brexit, ma così non è. Il sistema bancario rimane solido, certo è un sistema bancario che ha passato 3 anni di recessione profonda, ma da cui sta uscendo anche grazie a molte misure prese dal governo, ed è un sistema nel quale ci sono alcune molto poche specifiche criticità. Padoan si è detto fiducioso sulla possibilità di raggiungere molto presto un accordo con la Commissione nell'interesse dell'Italia e all'interno delle regole esistenti. Secondo il ministro delle finanze tedesco, Schäuble, ci sono margini per intervenire sulle banche italiane, anche se resta aperta la questione degli aiuti di Stato. E il cancelliere tedesco, Angela Merkel, non si aspetta nessuna crisi in Italia derivante dalla necessità di ricapitalizzare alcune banche del paese. Teresa Trillò, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla politica e politica italiana. Roma, Grillo incontra Virginia Raggi, dice fantastica, tutto bellissimo, l'avete sentito all'inizio. Beppe Grillo ha risposto così, uscendo dal Campidoglio, a chi gli chiede come è andato questo incontro con la sindaca Raggi. E poi invece un altro comune, che è della Toscana, Viareggio, dove il TAR annulla le elezioni del 2015. Il TAR della Toscana ha annullato le elezioni amministrative di Viareggio, quindi si dovrà tornare al voto. La sentenza dei giudici amministrativi è stata resa nota dallo stesso ricorrente Massimiliano Baldini, candidato sindaco per la Lega Nord, Fratelli d'Italia e liste civiche alle elezioni amministrative del 2015. La cronaca: è stata uccisa con almeno 2 colpi alla testa, uno alla fronte e uno dietro l'orecchio, Katia Dellomarino, 41 anni, di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, il cui corpo senza vita è stato trovato questa mattina sul greto del torrente Afra, non lontano dalla sua casa. L'assassino l'avrebbe colpita con un martello o una picozza. Il corpo della donna è poi rotolato lungo la leggera scarpata, dove sono state trovate tracce di sangue, per fermarsi sul greto del torrente. È ancora da stabilire l'orario del decesso. E si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP del Tribunale di Firenze Marco Cantagalli, 44 anni, che domenica mattina ha aggredito colpendola con un macete a una spalla l'ex compagna di 42 anni nella sua abitazione a Montespertoli, in provincia di Firenze. Nel corso di interrogatorio il GIP ha convalidato l'arresto, come chiesto dal PM. E se proseguono le indagini sulla bambina, su Maria, uccisa nel Beneventano a San Salvatore Telesino, sono entrati in azione anche i cani molecolari del nucleo cinofilo dei Carabinieri di Firenze, appunto a San Salvatore Telesino, dove lo scorso 19 giugno fu trovato nella piscina, vi ricordate, di un resort, il corpo senza vita di Maria, bimba romena di 9 anni, secondo gli inquirenti violentata e uccisa. I cani stanno setacciando, fiutando la zona, le aree limitrofe, alla ricerca di eventuali tracce della bimba e a riscontro di tutto il materiale probatorio che è stato raccolto nelle indagini dai vari reparti speciali dell'Arma. Il comune di Bosco Trecase, in provincia di Napoli, rischia ora di chiudere, pensate, perché 4 uffici non hanno più dipendenti. 23 i furbetti del cartellino sospesi, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato. 200 gli episodi di assenteismo documentati in poche settimane dalle forze dell'ordine. Nelle registrazioni delle telecamere si vedono mentre strisciano il badge per i colleghi, in alcuni casi coprendosi il volto con un cartone per non farsi riconoscere. Tra le persone coinvolte, il comandante della Polizia Municipale, il vice segretario comunale e il capo della ragioneria, il sindaco di Bosco Trecase, Pietro Carotenuto. Io sono sindaco da un mese, sono stato eletto il 5 giugno, episodi che si riferiscono a gennaio-febbraio, quindi nella passata amministrazione. Matteo Riberto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi ci sono stati 4 arresti oggi riguardo l'organizzazione del Salone del Libro di Torino. Sentiamo cosa è successo. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta relativa alla gara fatta per affidare l'organizzazione del Salone del Libro nel triennio 2016-2018. A finire in manette sono stati Regifor, direttore generale di Lingotto Fiere, il luogo dove si svolge la manifestazione, Roberto Fantino, direttore marketing di GL Events, la società francese che gestisce Lingotto Fiere e anche la Fiera di Bologna. In manette pure Valentino Macri, segretario della Fondazione per il Libro, che praticamente organizza il Salone. Ai domiciliari Antonio Bruzzone, dirigente di Bologna Eventi. Avviso di garanzia invece per Maurizio Braccialarghi, ex assessore alla cultura di Torino. Secondo la procura, il funzionario della Fondazione del Libro, che faceva parte della commissione giudicatrice, passava al dirigente di Lingotto Fiere informazioni riservate sul bando di gara, chi aveva presentato domanda, le offerte e così via. In questo modo veniva favorita la GL Events, che, come detto, gestisce il Lingotto. La società francese ha così potuto modulare la sua offerta e avrebbe anche contattato uno degli altri partecipanti per concordare la sua uscita di scena. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora cronaca, è stato trovato nel fiume Livenza, a Sacile, vicino Pordenone, il corpo del militare americano Hale Alex. Il corpo è stato rinvenuto seminudo a meno di un chilometro di distanza dal luogo della scomparsa. Hale, 24 anni, in servizio nella base friulana del 2015, aveva fatto perdere le proprie tracce dal 2 luglio, quando era andato a cena a Sacile, quindi si sarebbe dovuto recare a un appuntamento con un amico, dove però non è mai arrivato. Domani verrà effettuata l'autopsia. Ed è morto a 45 anni Lorenzo Amurri, produttore musicale e scrittore, da anni in sedia a rotelle per un incidente. Con apnea è stato candidato al premio Strega nel 2013. Parliamo anche di razzismo, visto che ancora Obama sta parlando in diretta da Dallas, da questa cerimonia per i 5 agenti uccisi, per queste tensioni razziali forti che ci sono in America da sempre, da diverso tempo di nuovo c'è questa recrudescenza. Ebbene, sono le donne la categoria più colpita dall'hate speech su Twitter, dall'incitamento all'odio. Seguono migranti e omosessuali. Questo lo rileva la mappa dell'intolleranza presentata oggi alla Camera dall'Osservatorio Italiano sui Diritti, che si chiama Vox. Quindi pensate, tra i discriminati, diciamo, il primo punto è essere donna, diciamo, la peggio situazione. Chiusura lo sport, ciclismo, dico naturalmente con amarezza, l'australiano Michael Matthews ha vinto allo sprint la decima tappa del Tour de France di 197 chilometri. E su questi chilometri, prima di aggiornare chi chilometri ne sta facendo con un proprio mezzo, e per poi risentirci tra pochissimo, vorrei vedere alcuni dei vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666. Per esempio, Riccardo da Roma scrive: disastro di Bari, attenzione a non fare confusione, il problema non è il binario unico, il problema è il sistema di controllo della circolazione, che a Bari è di tipo a controllo umano, quindi non automatico, non a prova di errore, il problema sono gli investimenti, dice Cordoglio, per le vittime. Infatti sì, credo che sia anche una questione, poi bisogna vedere, naturalmente le indagini sono in corso, sono partite diciamo più di un'indagine, di un'inchiesta, e cercheremo di capire anche con gli esperti se si possono fare delle ipotesi più o meno fondate. Poi molti scrivono che ci sono altri binari unici in Italia, dice questo ascoltatore, da Bergamo a Brescia e da Bergamo a Treviglio per Milano il binario è unico. Marco dice: in Lombardia c'è un'intera tratta di 105 km in binario unico che va da Brescia a Edolo. E poi, ma noi Bergamo Treviglio è doppio, anche la Roma Viterbo è a binario unico. E guardi, dice un altro ascoltatore, che binari unici ci sono in tutto il mondo, Svizzera compresa. Ne parleremo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che tra poco vi ricordo, Roberta Giordano sempre con voi, e abbiamo appena fatto questo quadro esauriente della giornata, e continuano i vostri messaggi al 349-238-6666, così come sulla pagina di Facebook di Effetto Notte, sui vari temi, in particolare naturalmente sul disastro ferroviario di oggi. Molti di voi dicono appunto che ci sono vari binari unici in Italia. Poi un altro ascoltatore dice: sì, ma Brescia-Edolo va verso le montagne in Trentino, Bari mica ci sono le montagne. E vabbè, questo non significa, se si viaggia sullo stesso binario quando non dovrebbero esserci due treni, è chiaro che al di là che ci siano le montagne o meno. Finmeccanica scrive in un altro messaggio, mettete un nome d'arte, uno pseudonimo, qualcosa: Finmeccanica è leader nella costruzione di segnalatori automatici, e in questo caso pare che non ci fossero su questa tratta. Poi altri messaggi, Luciano: il fatto è che In Italia abbiamo uno dei treni migliori al mondo, ma abbiamo anche linee ferroviarie fatiscenti, ma non è solo le ferrovie, ma anche le strade sono in pessime condizioni, bisogna investire in sicurezza. Questo è un mantra che si ripete da anni e tra poco approfondiamo la questione. Vi ricordo tutte le altre notizie. Appunto, lo scontro tra due treni vicino Bari, sono saliti a 25 i morti, bilancio purtroppo ancora provvisorio, 50 i feriti, errore umano, guasto, l'indagine è per omicidio colposo plurimo. E poi c'è il via libero del ministro delle finanze tedesco, sapete che è un falco, Schäuble, all'intervento europeo sulle banche italiane. Padoan si dice ottimista. Obama e Bush, presidente americano e l'ex presidente, sono ai funerali di Dallas per riunire l'America per i 5 agenti uccisi nei giorni scorsi durante una marcia afroamericana. Brexit, Cameron, il primo ministro uscente, esce direttamente di scena e la nuova prima ministra, lo sarà ufficialmente da domani, 13 luglio, Theresa May, prepara il governo. Renzi assicura entro l'anno il decreto per dire bye bye a Equitalia, cambia il rapporto dei cittadini con il fisco. E poi trovato nel fiume il cadavere dell'aviatore americano scomparso nel Friuli Venezia Giulia, visto l'ultimo giorno, 10 giorni fa, l'ultima volta 10 giorni fa, riconosciuto dal padre. I furbetti del cartellino ce ne sono sempre di nuovi, successo questa volta nel napoletano a comune di Bosco Trecase, 23 gli arrestati. Il sindaco dice rischiamo di chiudere, pensate che uno dei dipendenti mentre beggiava si metteva una scatola in testa per non farsi riconoscere. E quindi parliamo di questo disastro ferroviario di oggi in Puglia, uno scontro frontale, abbiamo detto, tra questi due treni delle ferrovie del nord barese che fanno capo a una società privata che si chiama Ferrotranviaria. È avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina sul tratto a binario unico tra Corato e Andria. A bordo c'erano centinaia di pendolari, viaggiavano diretti a Bari. Il bilancio, ancora in difetto purtroppo, come ha detto anche la Protezione Civile, è di 25 morti e una cinquantina di feriti, tra cui diversi gravi. I vigili del fuoco, vi davo la notizia poco fa di altre due vittime estratte, quindi appunto adesso sono 25, vuol dire che i vigili del fuoco continuano a lavorare all'acrimente da questa mattina per estrarre i passeggeri dai convogli distrutti. Sul tratto non sono previsti degli scambi su questo tratto, ma il sistema è ancora tutto computerizzato. Sembra quindi che a una delle due stazioni non è arrivato questo stop per uno dei due treni appunto di pendolari. Come dicevo, sono state aperte due inchieste. Il ministro Delrio dei trasporti ha mandato gli ispettori, ha annunciato l'avvio di una commissione d'inchiesta. Si parla di probabile errore umano, però appunto bisogna capire, poi lo capiremo dopo, effettivamente quali sono i segnali di allarme su questa tratta. È stato un impatto violentissimo, pezzi di lamiere sparsi ovunque, convogli distrutti, come un disastro aereo. Questa è stata la definizione del sindaco di Corato. Ne parliamo con Giampaolo Balsamo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buonasera Giampaolo. Sì, pronto, buonasera a voi. Tu eri presente e questa è la descrizione drammatica che ha dato il sindaco di Corato. Io confermo tutto quello che hai appena detto, rettifico soltanto che la tragedia è avvenuta alle ore 11, non alle 11.30, sì. Perché già subito dopo, quindi parliamo 11 e qualche minuto, già i primi pendolari, i primi viaggiatori avevano dato l'allerta alle forze dell'ordine chiedendo aiuto, insomma. Senti, okay. Sulle vittime purtroppo è un numero, come dicevi, ancora approssimativo, si parla di 25 certi, ecco, ultima, proprio questa è una notizia di qualche minuto fa, i vigili del fuoco, come dicevi, avrebbero estratto altri due corpi. In ogni caso, domani mattina alle 9 verrà fatto il riconoscimento ufficiale delle vittime presso l'Istituto di Medicina Legale di Bari, dove tutti i cadaveri sono stati trasferiti. Tra l'altro oggi hanno creato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i volontari, eccetera, Giampaolo, anche un centro di accoglienza per i parenti, sì, che sono accorsi, gli amici, no? Che non riuscivano, sì, a mettersi in contatto. Sì, c'è stato, ecco, da questo punto di vista la macchina organizzativa è stata perfetta, sia della Protezione Civile, sia dei volontari, si sono tutti quanti prodigati. Ti dico anche che in questo momento il Premier Renzi, oltre che essere stato lì sul luogo del disastro, insomma, essersi reso conto di persona di quello che è accaduto, si è proprio complimentato con i volontari che erano lì per i soccorsi che avevano prestato e per tutto quello che è stato fatto nel corso di questa lunghissima mattinata. Dalle ore 11 e tuttora stanno lavorando con le luci, insomma, messe a disposizione dai vigili del fuoco per cercare di, speriamo di no, però ecco, visto che ci sono alcuni dispersi, per cercare di portare sollievo, quantomeno si spera che siano ancora vivi questi dispersi. C'è anche un funzionario di polizia tra le vittime. Sì, è un vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, il 53enne Fulvio Schinza, gli possiamo dare il nome perché è stato reso ufficiale. Lui ha prestato servizio sia nei commissariati di Trani, di Corato, di Andria e accompagnava la figlia. Su questa notizia, ecco, ti posso dire che la figlia è un'altra delle persone che non sono state ancora rintracciate. Tra i dispersi. Senti, c'erano anche dei bambini tra i feriti. Sì, in realtà, quindi sì, sono tante le storie, no? C'era una madre che cercava la figlia. Sì, tante storie che poi, ecco, questo è un treno effettivamente che è molto molto frequentato. Viene utilizzato soprattutto questo nel periodo non estivo, dagli studenti, visto che unisce Bari, che è sede universitaria, dagli studenti, da molti pendolari che lavorano nell'Interland. In questo periodo è utilizzato molto da chi utilizza, ecco, l'aeroporto Karol Wojtyła di Bari, visto che una delle tappe quasi conclusive della tratta è proprio l'aeroporto. Quindi molti erano coloro, tra i pendolari, insomma, tra gli utilizzatori che si trovavano lì sul treno perché dovevano imbarcarsi poi per partire con l'aereo. Gianpaolo, se tu dovessi descrivere quello che hai visto da stamattina, senti, una scena apocalittica, davvero apocalittica. Io mi occupo di cronaca nera, diciamo di tragedie ne ho viste diverse, ma questa poi ti colpisce anche non soltanto come, ecco, giornalista, ma anche come uomo, vedere lo strazio dei familiari che erano lì e cercavano notizie sui loro parenti che erano sul treno. Questa cosa mi ha colpito particolarmente. E poi vedere questi due convogli completamente sconvolti. C'era soltanto, io scrivo anche nel pezzo che uscirà domani, c'era un silenzio innaturale e solamente il frinire delle cicale. Ci troviamo in aperta campagna con gli uliveti tipici di questo territorio. Per chiudere, Gianpaolo Balsamo, anche uno dei macchinisti è morto mentre l'altro è stato poi ritrovato e vivo, no? Perché all'inizio pare che tra gli scomparsi sia un altro dipendente, visto che in ogni convoglio c'è il macchinista e il capotreno, c'è un altro dipendente della ferrotranviaria. Senti, lui è tra gli dispersi. Sì. Gianpaolo, ancora il direttore generale di Ferrotranviaria ha detto che è troppo presto per fare delle ipotesi e penso che tu quindi lo confermerai, nessuno in particolare sì, si è esposto. Sì, l'ingegner Nitti è stato molto, molto chiaro da questo punto di vista. Loro hanno istituito una commissione di indagine interna, a noi giornalisti ha detto cercheremo in questo momento di capire le cause ed eventuali responsabilità. Lui ha escluso che ci possano essere stati degli errori tecnologici. Dall'esame delle scatole nere dei due convogli si capirà meglio. E poi lui ha detto cercheremo di capire meglio anche dai tracciati degli apparati centrali, dai registri dei fonogrammi tra le diverse stazioni, tra le registrazioni proprio telefoniche tra le due stazioni. Come hai detto tu inizialmente, si tratta di una tratta ferroviaria a binario unico dove avviene lo stop ancora via telefonica, cioè se c'è un problema il capostazione si sente con il macchinista e il capotreno e questo dialogo avviene purtroppo ancora telefonicamente. Grazie Gianpaolo Balsamo, questo dice molto della Gazzetta del Mezzogiorno e buon lavoro Gianpaolo. Grazie anche a voi. Ciao. E di questo parliamo con Mario Binetti, che è docente di sistemi di trasporto al Politecnico di Bari. Buonasera, professor Binetti. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Ha sentito, lo sa anche lei, insomma, visto che è di Bari, come funzionano gli avvisi, gli allarmi via telefono? È possibile, secondo lei, trattandosi tra l'altro di una tratta con un binario unico, quindi molto a rischio? Diciamo, questa tecnologia è sempre stata usata a partire dagli anni 50, fino ad un certo tempo, fino ad oggi, tant'è che è ancora in uso sulle tratte, diciamo, a minore frequentazione, viene sostituita con sistemi tecnologicamente più avanzati in conseguenza dell'aumento del traffico sulla linea. Quindi teoricamente, fino a che risulta il sistema coerente con il numero di treni che vengono inoltrati giornalmente, il sistema si presenta efficace, si è sempre presentato efficace, tanto che su quella stessa linea non si sono mai registrati incidenti di questa natura. La motivazione, diciamo, naturalmente non la conosciamo, ma diciamo il sistema è ampiamente usato. Poi ce ne sono altri tecnologicamente più avanzati che si affidano più ad aspetti elettromeccanici o informatici, che consentono una gestione diversa con altri sistemi di controllo del traffico. Professore, c'è un ascoltatore che dice che alla TV gli pare di aver sentito che le comunicazioni avvengono anche via fax. È mai possibile una cosa del genere? No, diciamo, può anche essere possibile via fax, però la procedura è codificata, c'è la telefonata che viene registrata dagli operatori delle due stazioni, quella che chiede il consenso e quella che fornisce il consenso, e quindi naturalmente, diciamo, tutto va registrato. Inizialmente questo era veniva usato il telegrafo, quindi era un sistema che operativamente... Quando c'erano le locomotive, forse, col vapore, no? Adesso mi sembra che sia un po' fuori tempo. Ragionevolmente era un sistema che ha sempre funzionato su tutte le linee, semplice binario, senza grosse frequentazioni, non ha mai dato nessun problema. Professor Binetti, Massimo Nitti, che lo citavo prima, il direttore generale di Ferrotranviaria, a cui fa capo la società privata, a cui fa capo queste tratte ferroviarie, ha detto: è presto per fare valutazioni, ma è evidente che qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto. Certo. Uno dei due treni non doveva essere lì. Naturalmente, questo è l'incidente. È un evento nel quale ci sono due oggetti che sono nello stesso posto e non dovrebbero essere. Questo è chiaro. Come è possibile? Perché la linea ferroviaria Bari-Barletta, che appunto è in mano a Ferrotranviaria, è oggetto da anni di un grande progetto finanziato dai fondi europei, che prevede l'allargamento e l'ammodernamento anche del raddoppio di questa intera linea, però pare che ancora oggi non ci sia stato questo raddoppio. La Ferrotranviaria, dal punto di vista della sicurezza, è un'azienda modello, nel senso che in coerenza con il piano regionale di trasporti ha promosso numerosi progetti di ammodernamento tecnologico ed infrastrutturale negli ultimi anni, e ha proposto anche il collegamento con l'aeroporto di Bari Parese. Sta provvedendo soprattutto al raddoppio della linea per oltre il 50% della sua estensione. Non vedo cosa si può chiedere, diciamo, di più all'azienda in quanto... Quindi secondo lei, professor Binetti, la linea funziona bene così com'è? La linea funziona ed è in fase di ammodernamento. Non si può pensare che l'ammodernamento avvenga per questo tipo di interventi infrastrutturali nel giro di qualche anno. In tempi brevi. Ma secondo lei si è fatto un'idea? Ha necessità di un tempo. Questo tempo dalla Ferrotranviaria viene utilizzato agevolmente con le risorse della Comunità Europea che ha messo a disposizione. Professor Binetti, ma al di là di tutto questo, lei si è fatto un'idea di che cosa possa essere realmente successo? No, questo diventa difficilissimo da dire. Bisognerebbe, così come ha anticipato il giornalista che mi ha preceduto, bisognerebbe, diciamo, verificare quelli che sono gli eventi registrati da registratori cronologici in stazione, a bordo treno, fare delle verifiche, cercare di capire il contesto operativo degli impianti di stazione. Non è banale, insomma. Chiaramente. Quindi, però, mi conferma che appunto si avvisano per telefono i capostazioni per dire: tu puoi andare al macchinista, tu fermati. Certamente. Funziona per il momento così. Questo è il modo di funzionamento del regime del blocco telefonico. C'è una telefonata da uno all'altro, si chiede il consenso, si inoltra, avendo ricevuto il consenso, si registrano le conversazioni in modo tale che risulta grazie dell'operato. Anche se insomma continua a rimanere, mi sembra a mio modestissimo parere, un metodo un po' rischioso, no? Quando c'è magari la persona che si dimentica o una svista, se fosse automatizzato, forse come in tanti paesi del mondo. Per le linee a minore frequentazione, nel tempo si usava un distanziamento differente, ma ancora più semplice, nel senso che gli si dava un tempo e si accordava in funzione del tempo, nella certezza che superato il tempo necessario per correre la tratta, la linea risultava libera. Vabbè, insomma, quindi adesso dal numero dei treni che vengono inoltrati giornalmente sulla linea. Sì, questo ho detto. Quando sono pochi, basta questo meccanismo. Però, insomma, bisognerà vedere poi con le indagini, con quello, gli elementi che verranno fuori, se è il caso di cambiare a questo punto questo metodo. Grazie, professor Mario Binetti, del Politecnico di Bari. Grazie, professore. Arrigentilla, grazie, saluti a tutti. Buona serata. Era tutto perfetto, dice ironicamente un ascoltatore su WhatsApp. 349-238-6666 per i vostri messaggi e le vostre opinioni, sia SMS che WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale do ancora uno sguardo. Per esempio c'è Michele che dice: non esiste il Sud abbandonato a se stesso, la ferrotranviaria è una delle aziende più all'avanguardia in Italia, come diceva anche il professor Binetti. Il raddoppio è in esecuzione su quel tratto, piuttosto sono le lungaggini burocratiche, i treni erano modernissimi, errore umano, secondo Michele. Continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo dopo questa piccola. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando. Riassunto della giornata, abbiamo parlato lungamente del disastro di oggi, avvenuto in Puglia, disastro ferroviario. Ne abbiamo parlato con un ingegnere dei trasporti, un professore del Politecnico di Bari, abbiamo parlato con un cronista della Gazzetta del Mezzogiorno che ci ha raccontato anche proprio da un punto di vista umano quello che ha visto, le sensazioni che ha avuto, e anche tutta questa macchina naturalmente dei soccorsi. Dice Riccardo di ricordare per favore quanti sono in fila per donare il sangue. Questa effettivamente è una cosa bellissima di grande solidarietà, di grande umanità. Continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio c'è questo ascoltatore, Gian Lorenzo, che dice: la ferrovia retica in Svizzera ha 380 km di rete a binario unico, modernissima, molto trafficata, non ha mai avuto incidenti, il problema non è certo il binario unico. Poi c'è Alberto che dice: vogliamo parlare delle ferrovie in Sardegna, avete mai preso il treno in Sardegna? Venite a prendere il treno da noi, poi ne parliamo, perché accadono incidenti ogni tanto. Tra pochissimo ritorniamo sul tema, ma intanto vi ricordo tutte le notizie più importanti del giorno. Lo scontro tra due treni in Puglia, il bilancio provvisorio di 25 morti, scusate, una cinquantina di feriti, visto che vi ho aggiornato poco fa. Probabile errore umano, la procura di Trani indaga per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, e il ministro Del Rio domani riferisce in Parlamento. Stati Uniti, il presidente Obama a Dallas per la cerimonia commemorativa per i 5 agenti uccisi. Fisco, Renzi conferma addio Equitalia entro l'anno i decreti fiscali. Furbetti del cartellino nel napoletano, 23 gli arresti, uno ricorreva a una scatola in testa per non farsi riconoscere mentre passava il badge. Ci colleghiamo con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta? Sì, buonasera ai radioascoltatori. Allora, Del Rio era sul posto da questa mattina, ministro dei trasporti, ha subito annunciato questa commissione d'indagine e poi domani, come dicevo, riferirà a Camera e Senato. Intanto Renzi è arrivato sul posto della tragedia, Betta? Sì, no, lui è arrivato, è andato poi a visitare proprio il luogo della tragedia, non ha voluto parlare con i giornalisti, ha voluto farsi spiegare però com'è stata la dinamica dell'incidente, e poi adesso è in prefettura a Bari per una riunione dell'unità di crisi e si aspetta che faccia una dichiarazione. Ricordiamo, già detto rabbia e dolore quest'oggi pomeriggio, però in questo momento è proprio al centro di coordinamento e sono con lui anche il ministro appunto delle infrastrutture Graziano Del Rio, poi il capo del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Fabrizio Curcio, i prefetti di Bari e i vertici delle forze dell'ordine provinciale della Protezione Civile. Ovviamente c'è anche il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Insomma, una brutta giornata, come è stato già detto da tutte le forze politiche. Domani alle 13 il governo riferirà alla Camera per spiegare la dinamica di questo incidente, sarà in aula Graziano Del Rio. Poi c'è da dire che anche Mattarella, il Presidente della Repubblica, ha detto facciamo chiarezza su questo incidente. Non mancano però le polemiche, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, perché Alessandro Di Battista dice appunto ci stiamo preoccupando di fare i treni ad alta velocità, e questa ovviamente è la polemica che il Movimento fa sulla TAV, mentre si capisce come si possano trasportare merci a velocità supersonica mentre invece le persone hanno poi questo tipo di incidenti, insomma le merci hanno più diritti delle persone. Quindi insomma ci sarà anche su questo fronte probabilmente domani durante l'informativa un attacco del Movimento 5 Stelle, che sappiamo è sempre stato contrario ai treni ad alta velocità, però ricordiamo questi non erano treni ad alta velocità, no, andavano a 100 km più o meno, questi erano purtroppo treni magari con dei sistemi assolutamente inadeguati, come abbiamo detto di sicurezza prima. Ecco, questo però verrà tutto quanto accertato ovviamente dalla magistratura. Abbiamo però detto che il governo ha già detto di voler fare una commissione d'inchiesta, e quindi domani avremo più delucidazioni dopo l'informativa del ministro. Aspettiamo allora domani. Grazie Elisabetta Fiorito da Roma. Ciao Betta. Grazie a voi. Ciao, grazie. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie che vi do brevemente. Mentre Carlo scrive, questa cosa della scatola in testa è tragicamente sublime e farebbe pure ridere se il motivo non fosse truffaldino, davvero, questo dei furbetti del quartierino nel napoletano, con questo, con lo scatolone in testa per non farsi riconoscere quando beggia, veramente di una fantasia senza pudore. Le notizie, lo scontro tra due treni in Puglia, il bilancio provvisorio di 25 morti e una cinquantina di feriti. Avete sentito che domani Del Rio, il ministro, riferisce in Parlamento. Stati Uniti, il presidente Obama a Dallas per la cerimonia commemorativa per i 5 agenti uccisi, ne parliamo tra pochissimo. E per quanto riguarda il fisco, Renzi conferma addio Equitalia entro l'anno i decreti fiscali. Europa 24 notte. La rotta balcanica è chiusa e gli arrivi in Grecia a proposito di migranti si sono ridotti del 60%, tuttavia il business di terra si fa beffa dei divieti e la situazione negli hotspot resta difficile, soprattutto in Grecia, centri soprattutto sulle isole fino a poco tempo fa dedicate alle vacanze. Al ritmo attuale di verifica di diritto d'asilo si rischia di aspettare fino a 2 anni per esaminare i casi di queste persone, così denuncia Save the Children. La rotta balcanica è chiusa. Da quando l'Europa ha stretto un accordo con la Turchia, gli arrivi in Grecia si sono ridotti del 60%. E tuttavia il business dei trafficanti di terra si fa beffe dei divieti. A dirlo Egizia Petrocione, responsabile advocacy internazionale di Save Children Italia. Nelle ultime settimane i colleghi in Serbia, i colleghi di Save, ci segnalano che stanno cominciando ad arrivare di nuovo migranti, e in particolare migranti minori non accompagnati in mano a trafficanti. Come quindi arrivano in Serbia se il confine è chiuso? Questo non lo sappiamo, faranno percorsi ovviamente nascosti, percorsi non controllati, ma riescono a farli grazie a trafficanti, quindi a persone senza scrupoli, quindi la situazione ha peggiorato i rischi che questi minori corrono, il prezzo che devono pagare per poter arrivare dove vogliono arrivare. La situazione negli hotspot resta difficile, soprattutto in Grecia. Ci viene riferito dai nostri colleghi di Save the Children, che sono presenti lungo tutta la rotta balcanica e in Grecia in particolare, che le condizioni sono molto preoccupanti, sia per esattamente le condizioni in cui si trovano i minori, quindi condizioni di fatto di detenzione. Di fatto i minori accompagnati o con le loro famiglie si trovano rinchiusi in condizioni spesso molto difficili di sovraffollamento, senza nessun tipo di supporto psicologico, legale, di traduzione e quant'altro. E soprattutto la cosa più preoccupante è che al ritmo attuale di verifica, diciamo, delle posizioni individuali, quindi delle richieste legittime di diritto d'asilo, ci sono minori che rischiano di aspettare fino a 2 anni prima di vedere la loro domanda esaminata, non approvata, sto dicendo proprio esaminata, quindi la situazione è insostenibile per queste persone. L'Italia non è la Grecia, anche perché l'Italia ha purtroppo, per fortuna, comunque maturato una certa esperienza nella gestione dei flussi migratori nel corso degli anni, perché in Italia naturalmente non è un fenomeno nuovo come quello che è accaduto dallo scorso anno in Grecia. Però ecco, anche in Italia ci sono situazioni di criticità a Pozzallo e anche in altri luoghi. Naturalmente il principale problema è il sovraffollamento e quindi l'impossibilità di fatto di sistemare i minori accompagnati o non in strutture diverse da quelle che accolgono gli adulti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora subito negli Stati Uniti con il nostro Margo Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Facci un flash, un polaroid di questa commemorazione delle vittime della strage di Dallas, dove c'è Obama. Marco. Sì, sì, è stata una commemorazione, come ci si poteva aspettare, carica, ricca di appelli all'unità, di appelli a superare le divisioni, l'odio, le tensioni razziali che sono state un po' il clima, l'humus di fondo che ha sotteso a questi tragici tragiche uccisioni dell'ultima settimana, dall'appunto il massacro di agenti di polizia a Dallas da parte di uno sbandato, diciamo, ex militare afroamericano, agli omicidi di due, alle morti tragiche di due afroamericani per mano di agenti di polizia dal grilletto fasci. Obama ha detto che l'America non è così divisa come sembra, ma ha anche riconosciuto che restano forti problemi razziali, resta quella che ha definito una fault line nella democrazia americana, un fossato, ecco, razziale resta un fossato. Resta, però ha detto l'America non è divisa, insomma è stata una cerimonia particolarmente toccante, anche se, come dici tu, le tensioni, come dice Obama, restano. Grazie Marco Valsania, dagli Stati Uniti. A Ciao voi. Marco, e ci risentiamo alle 22.